Esame in commissione, scelta civica, dice il TUC ipotizzato dal PDL costerebbe ai cittadini più dell'attrice. Sono poco meno di 10 milioni le persone colpite dal tifone nelle Filippine. Iniziano ad arrivare i primi aiuti. Il viceministro Dassù, rintracciati 4 connazionali, di altri ancora non si hanno notizie. Arriva sull'Italia la prima ondata di gelo con vento forte, 2 vittime nelle Marche, centinaia agli interventi dei vigili del fuoco anche in Umbria e Toscana. TAV, la Fresa, ha iniziato a perforare il massiccio Dambin. Intanto arrivano le richieste dei PM per gli incidenti di 3 anni fa, chieste condanne per 24 attivisti. Salernitana Nocerina, interrotta per i sospetti infortuni dei giocatori e le minacce ultra, fa ancora discutere, ospite fra poco il sindaco di Nocera Inferiore. Buongiorno, in apertura dunque ci occupiamo di questa giornata politica molto intensa che si gioca su due fronti naturalmente, un fronte più puramente politico che è quello che riguarda il PDL, il Popolo della Libertà, che si avvia al Consiglio Nazionale tra le tensioni e le ipotesi di scissione che si moltiplicano, e dall'altra parte sulla legge di stabilità che forse è il vero nodo politico, quello sul quale si giocherà la battaglia. Iniziamo dunque da qua, da quella che prima chiamavamo finanziaria, e ne parliamo con Alessandra Schepisi per avere le novità. Alessandra, buongiorno. Sì, buongiorno. Dalla prima casa all'IRPEF alle pensioni sono ancora questi temi caldi. Questa mattina la Commissione Bilancio del Senato ha avviato l'esame degli emendamenti, dunque la scrematura di oltre 3.000 proposte, e questo dimostra come sia chiara la volontà da parte delle forze politiche di rimettere mano all'intero testo che dovrebbe arrivare in aula entro il 20 novembre. PD e PDL convergono su una proposta, la proposta di esentare dall'IRPEF i redditi sotto i 12.000 euro, mentre finora la soglia è 7.500, ma il governo frena. Ieri il viceministro Fassina, oggi il sottosegretario Baretta, secondo il quale la proposta di no taxare IRPEF sotto i 12.000 euro appunto è insostenibile perché è troppo costosa. Dovremmo piuttosto dare una sforbiciata alle diverse propagande, dice ironico Baretta, mentre il PDL torna alla carica sulla cosiddetta rottamazione delle cartelle esattoriali, nel senso di poterle pagare subito senza sanzioni e interessi di mora, una misura che secondo i promotori consentirebbe di racimolare in tempi brevi 800 milioni di euro da destinare al taglio del cuneo fiscale e alla rivalutazione delle pensioni. Contrario invece il PD, che la considera una sorta di condono, e parere negativo su questo è stato espresso anche poco fa dal presidente della Corte dei Conti Giampaolino. La battaglia centrale però rimane sempre la casa. Dal PDL arriva la proposta di sostituire la TRISE con il tributo unico comunale TUC, rendendo esenti le prime case da qualsiasi prelievo di natura patrimoniale. Si riscriverebbe di fatto la riforma della tassazione immobiliare immaginata dal governo, ma secondo Scelta Civica, ma anche secondo alcuni calcoli dei sindacati, la TUC graverebbe di più sulle tasche dei cittadini. Staremo a vedere dunque. A te, Simone. Grazie Alessandra Schepisi, e torneremo a parlarne più tardi con Enrico Zanetti di Scelta Civica, che è tributarista, docente di diritto tributario e che ha sollevato proprio questo problema. Intanto, proprio a proposito di casa, ci sono i dati di oggi dell'ANCE. Negli ultimi 5 anni gli sfratti sono cresciuti del 54,5%. Numeri di un'emergenza abitativa elencati nell'occasione del Home Day 2013. Nella ricerca presentata oggi l'associazione ha spiegato come in Italia solo il 4% delle abitazioni siano sociali a fronte di una richiesta di 650.000 unità e come da 15 anni manchi un piano per le fasce deboli. Il tema centrale però resta quello fiscale. Sentiamo il presidente dell'associazione costruttori Buzzetti, intervistato da Leonardo Rossi. Il problema numero uno è la tassazione e l'incertezza. Abbiamo tra IMU, Tari, Tasi, Tarsu, adesso è venuta fuori TUC, diciamo, c'è al di là delle battute un'incertezza incredibile su quella che sarà la tassazione, sia sulla prima casa sia sulle seconde case. Questo crea un clima terribile di incertezza. Stava riprendendo un po' il mercato della casa, si è ribloccato tutto di nuovo. Quindi c'erano dei dati che segnalavano, seppur lieve, miglioramento? Dopo l'estate c'era stato sicuramente una ripresa di un minimo di fiducia e di movimento che si è completamente paralizzato. Del resto sta diventando la casa di nuovo la grande incertezza del paese, sia da un punto di vista sociale, perché lo sappiamo, in Italia non c'è famiglia senza casa, e poi anche dal punto di vista dell'economia. Quindi la classe media non riesce più a comprarsi casa e sta esplodendo un problema sociale per gli alloggi sociali di situazioni difficili che non riescono a trovare né in affitto né in acquisto, e non c'è uno stock a disposizione. La classe media, ma anche i giovani. Classe media, i giovani, coloro, insomma, tutte le classi sociali che hanno difficoltà a trovare casa. E tra i provvedimenti che si stanno immaginando, o almeno sta immaginando il Popolo della Libertà all'interno della legge di stabilità, ce n'è uno che riguarda anche Equitalia e le cartelle esattoriali. Prima di parlare di questo, però, vogliamo partire dalle novità che già ci sono. Abbiamo in studio con noi Giovanni Parente del Sole 24 Ore. Benvenuto, Giovanni. Benvenuto, grazie a voi. Oggi facciamo, grazie per il benvenuto, oggi il giornale dedica un ampio spazio a questa nuova possibilità di rateizzazione. Ci spieghi un po' come funziona? Allora, che cosa è possibile fare da oggi, anzi da ieri? È possibile andare presso Equitalia e chiedere la dilazione di un piano di pagamento del proprio debito con l'agente della riscossione fino a 10 anni, 120 rate. Questo però è possibile soltanto in presenza di alcune condizioni. Detto molto semplicemente, bisogna dimostrare che la propria condizione sia peggiorata anche per colpa della crisi economica, ma bisogna allo stesso tempo dare all'agente della riscossione la garanzia della propria solvibilità, cioè di essere in grado di pagare quel debito su un orizzonte temporale più ampio. Va ricordato che finora la dilazione era stata possibile fino a 72 rate, quindi vuol dire fino a 6 anni. Invece con il nuovo decreto che è stato firmato la scorsa settimana dal Ministro dell'Economia Saccomanni, appunto viene estesa fino a 10 anni questa possibilità, con la chance addirittura di ulteriore proroga in corso se nel cammin facendo non si dovesse essere in grado di sostenere la rata. Allora, questo per quanto riguarda il provvedimento già in atto, e tra l'altro, appunto, tutti i dettagli li trovate sul Sole 24 Ore, c'è anche addirittura un facsimile della domanda, insomma, quindi c'è veramente tutto. Giovanni, quello che ti voglio chiedere invece è che cosa sta proponendo il PDL in merito alle cartelle esattoriali e ad Equitalia in questo momento? Sostanzialmente l'idea è quella di consentire di chiudere le cartelle emesse negli ultimi 5 anni attraverso uno sconto che dovrebbe riguardare la parte delle sanzioni e degli interessi. Come sappiamo, il tema delle cartelle esattoriali è diventato particolarmente insostenibile proprio perché si aggiungono una serie di costi dal momento in cui l'Agenzia delle Entrate emette l'avviso di accertamento, che sarebbe il j'accuse nei confronti del contribuente per non aver pagato le imposte, al momento in cui viene consegnato a Equitalia il compito di doverla incassare. Quindi si aggiungono le sanzioni, si aggiungono gli interessi, e poi addirittura a Equitalia viene concesso un aggio della riscossione che in realtà non è altro che il corrispettivo per il ruolo svolto per la riscossione dei crediti. Quindi tutta una serie di somme che si stratificano e fanno crescere l'ammontare richiesto al contribuente. La proposta del PDL proverebbe a sanare le vecchie cartelle azzerando sanzioni e interessi, quindi pagando di meno sostanzialmente. Grazie Giovanni Parente per questi aggiornamenti e per questi chiarimenti. Si diceva, ed era il nostro primo titolo, che la legge di stabilità è chiaramente uno snodo centrale anche nelle vicende politiche. Vicende politiche che in queste ore sono chiaramente quelle del PDL, che si avvia al Consiglio nazionale, tra le tensioni, gli strappi e quello che ormai appare uno scontro totale. Elisabetta Fiorito. Sì, allora Simone, Angelino Alfano questa mattina sembra frenare i venti scissionisti. Confidiamo e speriamo sempre che il nostro movimento politico resti unito, e siamo consapevoli che il presidente Berlusconi è vittima di una grave ingiustizia giudiziaria. Il vice premier interviene a Verona per la firma di alcuni protocolli sulla sicurezza. Il presidente Berlusconi, continua Alfano, si è sempre comportato come uomo di Stato. Sono convinto che questa sia la linea che ha più premiato e più continuerà a premiare. Una posizione in attesa di quanto decideranno gli alfaniani, e quindi anche Angelino Alfano ovviamente, nella riunione di questa sera prevista alle 21 insieme ai ministri nella sede del partito. Intanto Fabrizio Cicchitto avverte i falchi: potremmo non partecipare al Consiglio nazionale, basta darci dei traditori, stanno radicalizzando lo scontro, mancano le condizioni per un dibattito sereno. Sul fronte parlamentare invece si accende una nuova polemica e riguarda la possibile depenalizzazione per i reati tributari da inserire nella delega fiscale ed attuarsi poi con un decreto legislativo, una mossa studiata da Renato Brunetta che cancellerebbe di colpo la sentenza Mediaset. Bisognerà vedere adesso cosa succederà proprio qui in Parlamento. Simone, a te la linea. Grazie alla nostra Elisabetta Fiorito. Intanto sta parlando in Commissione Bilancio al Senato il Vice Ministro dell'Economia Stefano Fassi. Sono frasi che vi riferisco, che arrivano adesso dalle agenzie. Fassina dice irricevibile la richiesta di una terapia shock attraverso la legge di stabilità. I vincoli di finanza pubblica, soprattutto quelli delle politiche economiche dell'Eurozona, appunto, la rendono irricevibile. Passiamo a parlare delle Filippine, dove iniziano ad arrivare i primi aiuti. L'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati ha organizzato un ponte aereo d'emergenza per assistere i quasi 10 milioni di persone che, secondo le stime, sono state colpite dal devastante tifone. Il pianto di questa neonata, venuta alla luce fra le macerie in una sala d'attesa dell'aeroporto di Tacloban, aeroporto che è l'unico edificio rimasto in piedi in una città, Tacloban, totalmente rasa al suolo dalla tempesta, è l'unica notizia positiva che arriva dalle Filippine. Oltre 660.000 gli sfollati, almeno 10.000 morti in una sola città, strade disseminate di cadaveri, di macerie, mancano acqua e cibo. People here were convinced that it looked like a tsunami. La gente qui rivive la situazione come uno tsunami, dice il sindaco di Tacloban. E intanto il tifone è passato anche per il Vietnam, dove ha fatto 14 morti, 4 dispersi, un'ottantina di feriti. Secondo una prima stima fatta questa mattina dalla protezione civile vietnamita e citata dalla CNN, depotenziato, il tifone si è spostato poi verso la Cina meridionale, dove le vittime sarebbero almeno 5, secondo l'agenzia Nuova Cina. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E sono in salvo 4 italiani che mancavano all'appello, appunto, nelle Filippine. Il vice ministro agli esteri Marta Dassù, intervistata sempre dalla nostra Valentina Furlanetto. Ci sono delle buone notizie. Nelle ultime ore siamo riusciti a contattare 4 nostri connazionali che non riuscivamo a contattare. Sono in salvo, per fortuna. 3 di loro vengono da Samar, che è una cittadina completamente distrutta nell'epicentro del super tifone. Stanno tornando in macchina e quindi, insomma, qualche notizia positiva c'è, ma non possiamo essere sicuri della sorte dei restanti italiani, che dovrebbero essere pochi, ma le dico, numeri certi non li possiamo fare. Sul fronte degli aiuti umanitari l'Italia sta dando il suo contributo fondamentalmente attraverso il programma alimentare mondiale e attraverso altri 2 canali. Ieri il ministro Bonino, insieme al vice ministro Pistelli, che ha la delega per la cooperazione allo sviluppo, hanno messo a punto con la direzione generale qua un pacchetto di 1 milione di euro circa per il momento. Poi c'è un nostro contributo multilaterale ancora del governo, circa 350.000 euro attraverso la Federazione Internazionale della Croce Rossa. Il maltempo ha messo a dura prova molte regioni del centro, particolarmente colpite le Marche. Pioggia torrenziale, vento forte, hanno spazzato strade e colline, molte le esondazioni e le frane. 2 i morti ieri, entrambi nella provincia di Pesaro. Alcune famiglie sono state allontanate dalle loro case. Oltre 1.000 gli interventi dei vigili del fuoco, moltissimi proprio nelle Marche. Ma sentiamo il funzionario dei vigili del fuoco della sala operativa della regione, Milani. L'emergenza si sta spostando verso sud, quindi verso la zona di Ascoli, e probabilmente una nostra sezione operativa dovrà essere spostata, una sezione operativa che sta operando qui nella provincia di Ancona dovrà essere spostata nella provincia di Ascoli. Attualmente stiamo intervenendo su numerose richieste che sono in coda, circa una settantina di richieste di intervento per caduta alberi, smottamenti di terreno, allagamenti vari di piani seminterrati o interrati, quindi stiamo provvedendo a richiamare personale in turno libero per far fronte a tutte le emergenze. La zona più colpita è quella di Fabriano Genga, comunque le mareggiate forti venti hanno creato anche disagi sul resto della provincia. Come definirebbe la situazione? La situazione nella nostra provincia, sì, la definirei abbastanza sotto controllo, anche se purtroppo non abbiamo la tempestività per mancanza di personale sufficiente a garantire, insomma, tutti gli interventi immediatamente. È una giornata intensa sul fronte TAV, se ne sta discutendo e se ne è discusso in Parlamento mentre va avanti il processo per alcuni incidenti avvenuti nel 2010. I PM hanno chiesto la condanna per 24 esponenti del movimento. Oggi però in Val di Susa una gigantesca fresa da 380 tonnellate ha iniziato degli scavi. È quindi un momento importante per quest'opera. Ci colleghiamo con la Val di Susa e con Filomena Greco. Filomena, buongiorno innanzitutto. Sì, buongiorno Simone, buongiorno a te e a tutti voi. Che cosa deve fare questa fresa? Allora, questa presa deve scavare in maniera meccanica un tunnel geognostico. Questa mattina una delegazione francese e un italiano ha appunto visitato il cantiere della Maddalena, dove appunto si stanno realizzando quelle che sono opere propedeutiche al tunnel di base della Torino-Lione. In particolare nelle prossime ore entrerà in funzione la talpa che realizzerà questo scavo da 7,5 km. Il tunnel della Maddalena. La Fresa lavorerà nei prossimi 30-40 mesi più o meno per completare la galleria, che di fatto è, come dicevamo, un tunnel geognostico, cioè un'opera propedeutica al futuro tunnel di base, la TAV vera e propria, necessaria per sondare di che consistenza è la montagna in quella parte, insomma. Ecco, la prossima settimana è in programma, lo ricordo, il vertice Italia-Francia a Roma. Negli incontri fra Hollande e Letta, la Torino-Lione sarà un tema importante al centro della discussione. La Francia ha già ratificato l'accordo, quello del 30 gennaio 2012, sulla futura realizzazione della tratta internazionale, mentre, come dicevi tu, il testo è al vaglio della Camera dei Deputati, dove proprio in queste ore è in corso il voto sugli emendamenti, circa un migliaio presentati da SEL e Movimento 5 Stelle, e che sono in realtà votati da tutta l'opposizione, compresa dunque Lega e Fratelli d'Italia. Il testo dopo la Camera passerà al Senato per la ratifica, per concludere poi il suo iter, si prevede entro fine anno. Quindi questo per il cantiere è sicuramente un momento importante, l'entrata in funzione della Fresa per la realizzazione del tunnel. Ecco, questo è un momento chiaro. Grazie e grazie a Filomena Greco per questi aggiornamenti, e torneremo a sentirti naturalmente nel corso della giornata. Una pausa, la viabilità, e poi ritorniamo sull'assurda vicenda della partita Salernitana-Nocerina. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti. PDL allo scontro totale. Cicchito dice: potremmo disertare il Consiglio nazionale. Su tutto questo si innesta il dibattito sulla manovra, sulla legge di stabilità. È iniziato l'esame in commissione, dice il vice ministro Stefano Fassina. Il governo a favore di meno IRPEF per le famiglie in difficoltà. Sono poco meno di 10 milioni le persone colpite dal tifone nelle Filippine. Iniziano ad arrivare i primi aiuti, il viceministro Dassù, rintracciati 4 connazionali, di altri ancora non si hanno notizie. Arriva sull'Italia la prima ondata di gelo con vento forte, 2 vittime nelle Marche, centinaia gli interventi dei vigili del fuoco, problemi anche in Umbria e Toscana. Per la TAV, lo avete appena sentito, la Fresa ha iniziato a perforare il massiccio Dambin. Intanto arrivano le richieste dei PM per gli incidenti di 3 anni fa, chieste condanne per 24 attivisti. E noi ritorniamo adesso, dovremmo almeno ritornare sulla vicenda di Salernitana-Nocerina, ma a quanto pare abbiamo dei problemi di collegamento, quindi chiedo a... Passiamo a parlare di Nassiriya. Come sapete, 10 anni fa la strage, l'attentato alla base italiana in Iraq. Delle 28 vittime, 18 erano i nostri connazionali, 12 carabinieri, 5 militari dell'esercito e 2 civili. 10 anni dopo l'Italia si ferma per la giornata di ricordo per i caduti nelle missioni internazionali di pace. A Roma sono ricordate le vittime con una messa, la deposizione di una corona da parte del ministro della difesa e poi la consegna di una medaglia ai loro familiari. Una medaglia che non ha mai voluto uno dei sopravvissuti, il maresciallo dei carabinieri Riccardo Saccottelli, perché, dice, lo Stato non ha voluto chiarezza su quei fatti e ci ha abbandonato. Intervistato da Raffaella Calandra ai microfoni di A Ciascuno il Suo, la nostra trasmissione, la trasmissione della nostra Raffaella Calandra su Radio 24, dunque ascoltiamolo. Quella medaglia era una medaglia fatta di oro che non vale nulla. Nel frattempo, per me, tu non hai fatto nulla. Anzi, i 3 generali indagati sono stati ricompensati dallo Stato con le più alte onorificenze dello Stato italiano, che sono l'Ordine Militare d'Italia e il Cavalierato della Repubblica, mentre c'erano i processi in corso. Lei era lì a Nassiriya, nella base che è stata presa come bersaglio di questo attentato. Che cosa le ricorda ancora 10 anni dopo? Sono uno dei pochi che è rimasto in piedi, i miei amici sono morti fatti a pezzi. Le immagini di quello che c'era e che è successo lì non sono state mai pubblicate. Perché? È scomodo far vedere che cosa è successo. C'è qualche richiesta in particolare che ha avanzato? Io a maggio del 2003 dovevo andare in avanzamento in grado. Io in avanzamento non ci sono andato, ma gli indagati sì. Quel processo lì ruotava intorno al fatto che fosse stato calcolato il rischio attentati. Voi vi sentivate insicuri? Il fatto che quella struttura fosse inidonea, ma era una cosa così evidente e risaputa. La sera prima dell'attentato c'era stato Daniele che aveva detto questo: guarda, qualche giorno fa hanno colpito Baghdad, c'era la sede dell'ONU, poi c'è la Croce Rossa a Bassora e noi siamo in mezzo, i prossimi siamo noi. Noi eravamo di guardia lì a difendere non una caserma, ma l'ultimo lembo del territorio italiano. Sono contento che abbiamo potuto fare dei progressi e che l'impasse sia stata superata. Queste sono le parole del ministro indiano degli esteri Salman Khurshid, commentando l'interrogatorio dei quattro fucilieri dell'Enrique Alexi durante una conferenza stampa a Gurgaon, alla periferia di New Delhi. Come avete capito, continuiamo a parlare di militari all'estero, nella fattispecie i nostri marò. A questo è dedicato il commento di oggi di Stefano Folli. Il punto di Stefano Folli. In mezzo al frastuono suscitato dalle polemiche sulla legge di stabilità, spettacolo che va in scena puntuale ogni autunno, magari non tutti si sono accorti che qualcosa si sta muovendo per quanto riguarda i due marò prigionieri in India. Forse ci eravamo addirittura dimenticati di loro, invece il caso è purtroppo ancora aperto e qualcuno alla Farnesina se ne occupa. Lo fa senza battere la gran cassa mediatica e questa potrebbe essere la scelta giusta perché almeno non irrita inutilmente le autorità di Nuova Delhi. Il problema non è fare propaganda politica in Italia sulla pelle dei due fucilieri del San Marco, ma più semplicemente riportarli a casa. L'interrogatorio in teleconferenza dei loro quattro compagni rientrati in patria, voluto dai magistrati indiani, pare sia andato bene, un piccolo passo avanti è stato compiuto. Lasciamo lavorare in silenzio i nostri mediatori, sperando, è ovvio, che sappiano bene cosa fanno e dove mettono i piedi. È stato approvato, nella notte è stato raggiunto l'accordo sul bilancio europeo. Ne torneremo a parlare tra poco, naturalmente, in Europa 24, dopo le 14. Intanto sentiamo il servizio. L'intesa per la correzione di bilancio 2013 e il budget 2014 dell'Unione per ora è solo politica. Dovranno sancirla la prossima settimana Consiglio e Parlamento europeo. Ma finalmente c'è ed eviterà lo shutdown europeo. Per l'anno in corso passa l'emendamento del Consiglio sui 400 milioni da destinare ai paesi europei colpiti da catastrofi naturali nel 2013. Verranno reperiti nel bilancio generale, nessun contributo extra, mentre la spunta il Parlamento sugli aumenti ai tetti di spesa per il 2014, che il Consiglio avrebbe voluto più bassi. Saranno 142,6 miliardi per gli impegni, cioè le somme che si potranno promettere di pagare negli anni successivi, e 135,5 miliardi per i pagamenti, cioè le somme realmente a disposizione. Complessivamente però è una riduzione di oltre il 9% rispetto a un anno fa. Nel bilancio 2014, il primo del quadro finanziario 2014-2020, saranno previsti poi 9 miliardi di impegni e 6 di pagamenti per il programma Horizon 2020 a favore della ricerca, 3,9 miliardi di impegni e 900 di pagamenti per il lavoro giovanile. Saranno rinforzati Frontex, l'Ufficio Europeo per l'Asilo ed Europol, come richiesto dall'Italia. 785 saranno i milioni per i rifugiati siriani e di Lampedusa. Previsti anche ritocchi a rialzo per Erasmus e Cosme, il programma a sostegno delle PMI. Laura Bettini, Radio 24 e Sole 24 Ore. Adesso vogliamo parlare di riforme istituzionali. Insomma, come sapete, è un tema, se ne continua a dibattere e non si fanno mai. Detto ciò, è partita qualche tempo fa una consultazione pubblica, una consultazione su internet, della quale oggi sono arrivati i primi risultati. Saluto Donatella Solda, che fa parte dello staff del Ministero delle Riforme, che ha curato questa consultazione pubblica. Buongiorno. Buongiorno. Che risultati sono emersi? Che cosa è uscito fuori? Quanta gente ha partecipato? Il questionario, come diceva lei, la consultazione è stata strutturata in diverse fasi. il questionario aperto l'8 di luglio e chiuso l'8 di ottobre ha visto una partecipazione molto elevata, con un totale di oltre 200.000 questionari completati, 131.000 di primo livello, erano 8 domande abbastanza semplici e brevi a cui rispondere, e oltre 70.000 questionari di approfondimento che comprendevano, diciamo, dai 14 alle 23 domande, c'erano dei bivi, delle domande con delle risposte. E cosa dicono i cittadini? Allora, cosa vogliono? Quelli che hanno partecipato alla consultazione? Brevemente, Solda. Certamente. Due dati molto chiari, quindi molto convinta la posizione rispetto al superamento del bicameralismo paritario, quindi una consistente quantità di partecipanti vogliono o il monocameralismo oppure un senato composto e con funzioni diverse rispetto a quelle presenti adesso nella nostra attuale forma. E un altro dato molto forte è relativo all'organizzazione degli enti territoriali, quindi non un dato abbastanza convinto sull'abolizione delle province o una loro ridistribuzione o numerica o di funzioni, ma anche in generale una riorganizzazione delle funzioni di tutti gli enti territoriali in modo verso un'efficienza maggiore. Grazie a Donatella Solda. Adesso però queste cose tocca farle. Tra le persone a cui toccherà farle c'è anche Enrico Zanetti, deputato di Scelta Civica, vicepresidente della Commissione Finanze, che saluto. Buongiorno e benvenuto. Buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori. Però non è sulle riforme che voglio il suo intervento, ma su questo TUC, tributo unico comunale, oltre che omonimo di una nota marca di biscotti, un noto tipo di biscotti, anzi di cracker, che è la proposta del PDL per superare la nuova service tax, per così dire. Lei ha fatto qualche calcolo, lo ricordo, Zanetti è un fiscalista e docente di diritto tributario, quindi diciamo di queste cose ne capisce. Lei ha fatto qualche calcolo e ha capito che in realtà questa roba costa di più dell'ipotesi di service tax attualmente sul piatto. Ma sì, diciamo, prima ancora di qualche calcolo, ho letto con attenzione l'emendamento che è stato presentato e dalla lettura emerge in modo inequivocabile come, diciamo, c'è stato un evidente errore nella stesura dello stesso, presumo, perché il PDL chiaramente fa la sua bandiera nel dire che sulla prima casa nulla deve essere dovuto dal proprietario, anche a costo, perché poi questo fa il PDL, anche a costo di scaricare poi il mancato introito che deriva da questa posta sui proprietari degli altri immobili, ma nonostante questa sia la sua battaglia, per come hanno scritto l'emendamento, in realtà si ritrovano ad avere, con questa TUC ci si ritroverebbe ad avere una tassazione dell'1,5 per mille sulle prime case, che è addirittura maggiore di quella dell'1 per mille che prevedeva la TASI, cioè l'imposta che aveva pensato il governo nella versione iniziale del disegno di legge di stabilità. E come mai? Purtroppo, come dire, di dottor Stranamore in ambito fiscale, chi se ne occupa ne ha visti tanti in questi anni, tant'è vero che c'è un motivo per cui il nostro sistema fiscale è tra i peggiori in assoluto, non è solo molto gravoso, ma è anche pessimo, perché purtroppo la qualità delle persone che si approcciano a una materia che è di grande impatto mediatico e quindi di grande ritorno politico, non è sempre una qualità, adeguata dal punto di vista poi della competenza di una materia che francamente è molto complessa e dove ci si mette un attimo a ingarbugliare le carte e a ingarbugliarsi anche a volte se stessi con le carte. Devo dire comunque che un risultato del genere, insomma, fatto dal PDL, che si compiace di essere la sentinella antitasse, devo dire, è una cosa veramente eccezionale, sulle mani in cui siamo, purtroppo. Grazie Enrico Zanetti, deputato di Scelta Civica, anche per la vis polemica che in certi casi ci sta. Noi ovviamente quando arriverà la Camera faremo il nostro per fare in modo che queste cose scompaiano, sia chiaro, perché non siamo mica solo qua per commentare, siamo qua per cercare, una volta tanto siamo al posto giusto per provare a risolvere prima che il problema si generi. Grazie Zanetti, buona giornata e buon lavoro. A lei. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti. Impossibile una terapia shock, ma miglioreremo la manovra, interverremo sull'IRPEF per le famiglie in difficoltà, dice il vice ministro all'economia Fassina. PDL allo scontro finale, Cicchitto dice potremmo disertare il Consiglio nazionale. Più di 11 milioni le persone colpite dal tifone nelle Filippine, ha riferito poco fa l'ONU, 670.000 gli sfollati, le Nazioni Unite lanciano un appello, servono 300 milioni di dollari. TAV La Fresa ha iniziato gli schemi nel cosiddetto cunicolo esplorativo, fase preliminare alla realizzazione del tunnel vero e proprio. E noi, in quest'ultima parte di Effetto Giorno, ultima naturalmente prima dell'arrivo di America 24, vogliamo tornare sull'assurda vicenda della partita Salernitana-Nocerina. Una vicenda che vi abbiamo già raccontato ieri e che naturalmente avrete letto sui giornali o su internet. Che cosa è successo? Che dei tifosi della Nocerina, ai quali era impedito l'accesso allo stadio, hanno di fatto assediato l'albergo dove si trovavano i loro giocatori e, secondo quello che è stato raccontato e quello che sta emergendo in queste ore, avrebbero di fatto costretto i giocatori a non giocare. In che modo? I giocatori si sono infortunati a raffica, lasciando la squadra in 6 e quindi nell'impossibilità di giocare. Saluto il sindaco di Nocera Inferiore, Manlio Torquato. Benvenuto, sindaco. Grazie, buongiorno a voi. Lei mi è sembrato di capire dalle dichiarazioni dei giorni scorsi che non attribuisce particolari responsabilità ai suoi concittadini e autori di questo assedio. No, io non ho detto questo. Io mi sono ribellato e continuo a farlo a come la situazione è stata descritta già prima della partita e ancor più nelle immediatezze, proprio nei minuti successivi alla partita, perché è stata la descrizione di una vicenda che ha fortemente penalizzato nell'insieme, in modo indistinto, la comunità sportiva di Nocera e quindi la città di Nocera. Io mi sono ribellato e mi ribello a questo. E mi ribello a questo perché Nocera è una città di antica tradizione, di antichissima civiltà, e è nata prima di Salerno stessa. Era capitale di una confederazione. Però sindaco, scusi, però i fatti lei non li nega, le cose sono andate così. Allora, in ordine ai fatti, ripeto, ho detto bisogna verificare con certezza come stanno le cose, perché vi sono alcuni elementi dubbi in questa situazione che vanno accertati. Nel cioè? Momento in cui saranno, glielo dico subito, nel momento in cui saranno accertati e comprovati, vanno duramente penalizzati coloro che dovessero avere messo in essere questo tipo di condotta, senza timore di alcuna flessione. Dove sono i dubbi? Mi scusi, nel momento nel quale... I dubbi sono questi, che vi sono descrizioni, si sono susseguite nel corso delle vicende descrizioni contrastanti dei fatti stessi. Ovviamente è scontato dire che alcuni tifosi rappresentano una descrizione della vicenda differente, cioè che loro sono... Vabbè, i tifosi lo sappiamo, insomma, mentre invece... Questa è una parte della storia, ma anche nelle descrizioni giornalistiche, se lei le mette insieme nel loro susseguirsi, sono alquanto contraddittorie. Mi scusi, però, sindaco, io non capisco come mai a quel punto i giocatori abbiano deciso, perché non posso spiegarmi diversamente la cosa, come i giocatori abbiano deciso di farsi male così, insomma, come dire, di infortunarsi in questo modo. E questo è un elemento ovviamente di grande perplessità, così come suscita interrogativi il fatto che siano scesi in campo con una maglietta che porta scritto in petto Nocera merita rispetto. E allora chi le ha date queste magliette? Chi le ha fatte indossare? Come si sono sviluppate le vicende? Comprenderà che tutta la situazione è quantomeno equivoca. Ma c'è una parte della tifoseria colpevole, sindaco, non possiamo negarlo questo, no? Ma in ordine ai fatti o in generale? Perché se diciamo in ordine ai fatti c'è una parte della tifoseria colpevole, i fatti vanno accertati e vanno duramente sanzionati. Che in generale ci sia una tifoseria molto appassionata a Nocera è fatto noto, ma che sia totalmente da discriminare non mi pare giusto. Guardi, glielo dice, mi perdoni, sì, glielo dice una persona che nel corso delle proprie vicende amministrative e anche elettorali recenti, io sono sindaco da un anno, non ha certamente goduto della simpatia personale, fatto noto in città e nella provincia, anche alle autorità prefettizie, che sono le autorità delle forze dell'ordine, della simpatia del mondo sportivo nocerino. Però, stante la forte identificazione tra mondo sportivo e comunità cittadina, mi è parso quantomeno inopportuno avere in modo molto sommario e frettoloso liquidato la vicenda in modo tale da mettere in cattiva. E quindi, mi scusi, sindaco, così chiudiamo. Quindi, secondo lei, certo, potrebbero essere stati i giocatori da soli che hanno deciso per quell'azione nel rispetto per, guardi, così dire, dei tifosi? Non mi faccia trarre delle conclusioni, perché io non sono né un'autorità di polizia né un'autorità giudiziaria. Io dico soltanto che ci sono elementi di perplessità complessiva, possono esserci state pressioni, se queste stanno emergendo ben vengano accertate e punite in modo inflessibile, ma se questo non dovesse essere credo che la cosa non vada bene. Ma a me tutta questa storia, mi perdoni, vorrei completare, sì, non interessa nel dettaglio, a me interessa l'immagine di una comunità, perché io ho il dovere di proteggere e di tutelare l'immagine di una comunità che è stata buttata nello spazio di 24 ore in pasto ai giornali con giudizi sommari e totalizzati. Ultima domanda, ha parlato di pressioni, pensa anche a criminalità organizzata? Ma non penso proprio, questo non credo proprio, non c'entra. Cerchiamo di non sommare l'equivalenza Sud Italia delinquenza organizzata sempre e comunque in ogni caso, perché purtroppo c'è la delinquenza organizzata, spesso è quella dei colletti bianchi e non viene fuori, è bene guardare a quello. Allora, grazie sindaco Torquato, sindaco di Nocera Inferiore, per essere stato con noi. In chiusura, era saltato ieri, le persone che stanno facendo la staffetta del digiuno con Roberto Giachetti, giunto al 37° giorno di protesta, di sciopero della fame per la riforma della legge elettorale. Chi abbiamo in linea oggi? Marcello De Sanctis. Mestiere? Io lavoro in un multinazionale e mi occupo di fisco. E come mai ha deciso di fare un giorno di digiuno? Ma fondamentalmente perché credo che sia di fondamentale importanza portare il nostro paese ad essere un paese civile e normale. Quindi secondo la mia opinione è che una legge elettorale che permetta di scegliere i propri amministratori e soprattutto, ma questa è la mia opinione, che sia maggioritaria e custode del bipolarismo e dell'alternanza è la base per questo tipo di società normale. Grazie a Marcello, prego, De Sanctis, buona giornata a lei. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti. Ed è il momento di Mario Platero con America 24. America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti all'America 24. Buongiorno Simone da New York, Mario Platero. نشان داد که ایران لنگرگاه ثبات در دریای ناآرامی‌های منطقه‌ای است. Hassan Rouhani, il presidente iraniano alle Nazioni Unite, aveva portato una ventata di grande ottimismo quando ha parlato, poi il colpo di scena, la chiacchierata con Barack Obama, sembrava che lo spirito del 2009, del marzo del 2009, quando il presidente americano cominciò la sua presidenza tendendo la mano un po' a tutti per cercare di recuperare un dialogo con paesi, diciamo, difficili o nemici dal punto di vista di George W. Bush, un dialogo che poi nel 2009 non portò a nulla. Ebbene, questa elezione nel giugno scorso di Rouhani aveva creato appunto queste aspettative, negoziato a Ginevra, le prime pagine dei giornali internazionali davano per certo l'accordo nel corso del fine settimana, poi un nulla di fatto, il segretario di Stato Kerry imbarazzatissimo, Barack Obama ha investito molto in questo negoziato, ha sacrificato dei rapporti privilegiati sia con l'Arabia Saudita che con Israele, sacrificato ovviamente nel senso che non è che il rapporto è compromesso, ma sono aumentate di molto le tensioni, lo abbiamo visto ieri durante l'incontro a Tel Aviv tra Netanyahu e proprio il segretario di Stato americano. Ecco, c'è una problematica a questo punto per l'amministrazione Obama, al di là naturalmente di quello che sarà l'esito poi di questo negoziato, perché poi molti sperano che magari qualcosa si rimetta a posto, ma non è con la risposta che hanno dato ieri gli iraniani, che hanno dato accesso agli ispettori dell'ONU, dell'Agenzia Atomica Internazionale, per fare delle visite al reattore ad acqua pesante per la creazione del plutonio che è in costruzione. C'è una bella differenza, perché il 5+1 a Ginevra chiedeva che fossero interrotti i lavori e abbandonati i lavori di costruzione di questo impianto, e loro invece dicono agli ispettori di venire a vedere che cosa stanno facendo. Insomma, c'è una situazione problematica, e di questo, della situazione problematica, per l'America, al di là di quello che può essere l'esito poi del negoziato nel senso stretto, vorrei chiacchierare con Maurizio Molinari, che segue molto da vicino non soltanto quello che succede in America, ma anche gli sviluppi in Medio Oriente e in Iran. Buongiorno Maurizio, mi senti? Buongiorno a voi. Insomma, l'amministrazione Obama si è messa un po' in un pasticcio, ha dato di nuovo troppa fiducia all'Iran, c'è questa situazione che molti dicono, cioè c'è una nuova leadership in Iran, ma non c'è stato un cambiamento di regime? Obama si è convinto che l'accettazione da parte della Siria del disarmo chimico sia stata dovuta grazie all'intervento dell'Iran. Ha interpretato quindi l'accordo sulla Siria come un'apertura da parte di Rouhani. E vuole adesso andare avanti su questa strada puntando a un accordo sul nucleare. Il punto è che le condizioni che Obama mette sono quasi accettabili per l'Iran, sono molto basse, mentre altri paesi come la Francia chiedono condizioni più serie, a cominciare dall'interruzione totale dell'arricchimento dell'uranio prevista da ben 6 risoluzioni delle Nazioni Unite. Questo è stato il cortocircuito che ha portato al mancato accordo a Ginevra. In effetti ci sono delle risoluzioni dell'ONU, nel momento in cui togli delle sanzioni tu hai bisogno di avere una contropartita, la contropartita è che dal punto di vista israeliano per esempio non solo sia interrotto l'arricchimento dell'uranio ma che addirittura siano smantellati gli impianti per l'arricchimento dell'uranio. La Russia aveva proposto all'Iran di arricchirlo lei per conto di Teheran, l'uranio, se davvero quest'uranio arricchito serviva solo per l'energia atomica e non per la costruzione di armi. Ma parliamo dell'America, insomma, ha sacrificato, ha messo in difficoltà un rapporto con Israele e con l'Arabia Saudita per trovarsi in queste difficoltà. Insomma, Rouhani ha certe responsabilità, non deve raccogliere la sfida, tornare indietro e dimostrare e confermare che davvero le cose sono cambiate a Teheran. La realtà è che questo è un presidente in questo momento molto debole, perché la crisi siriana si sta componendo secondo un'agenda che non ha stabilito lui, ma che il piano sappiamo che l'hanno presentato i russi. E poi sul fronte interno è molto indebolito dalla vicenda della riforma della sanità, dovrà entrare in vigore il 1 ottobre, sappiamo che ci sono stati tutta una serie di disguidi e malfunzionamenti per i quali lui è stato addirittura obbligato a chiedere scusa in televisione. Quindi sul fronte interno e il fronte internazionale è un'amministrazione assediata dai problemi, cerca in fretta un risultato politico visibile e spendibile sul piano interno e internazionale. Da qui un approccio alla vicenda iraniana che obiettivamente gli aliena le simpatie di molti alleati. Non sarebbe stato meglio così tenere più duro, insomma creare il presupposto in modo molto più concreto prima di andare così allo sbaraglio a Ginevra, perché questo si è avuta l'impressione che siano andati insomma impreparati, queste cose si preparano, è la prima volta che c'è un negoziato diretto con i ministri degli esteri. Sì, in effetti quando Kerry ha lasciato il Golfo dicendo vado a Ginevra, tutti noi abbiamo pensato che l'accordo era fatto. Il fatto che Kerry arriva, si mette seduto al tavolo con gli altri plenipotenziari, parla con l'iraniano e escono senza accordo, testimonia l'entità del cortocircuito. Una possibilità, si dice, che si apre invece uno spiraglio sul negoziato medio orientale, la pace fra palestinesi e israeliani. È possibile? Ma io credo, Mario, che l'Iran rilancerà a breve, puntando a ottimizzare questa debolezza americana e a centrare comunque un accordo, anche se al ribasso dal loro punto di vista in tempi strettissimi. Sul fronte medio orientale le cose si complicano perché l'ostilità israeliana al compromesso sull'Iran è tale che è difficile immaginare una collaborazione del governo Netanyahu con l'amministrazione Obama per arrivare alla conclusione definitiva dello status di guerra fra israeliani e palestinesi, che è vecchio di 60 anni. Da New York è tutto, Simone ti ripasso la linea, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going! America 24. Ed è tutto per Effetto Giorno, un ringraziamento a Pietro Lacorte, in regia Laura Faggin, in redazione in assistenza, a tutta la redazione di Radio 24 naturalmente e a tutti voi per l'ascolto da Simone Spezia. Oggi mi ribeccate purtroppo per voi anche con Focus Economia, alle 17 ci risentiamo tra un attimo con il giornale radio.